fuoco, ma calciato. Tenere i miei polmoni, stringo un patto col mio fatto, impatto sincronizzato, dato dal fatto che il mio stato è semi-scioccato. Lucida follia che ha messo il mio ego di lato. Chiedo aiuto, rapito da una sorta di energia sonora che mi ha preceduto e ritorno al passato più che ritorno al futuro. Ma ora sono sicuro del mio percorso, corso contro il tempo, contro vento e porto il mio bagaglio culturale a bordo. Quarto il mondo, ho dubbi sul come andrà a finire, quindi lo tengo al sicuro inciso su un vinile. Ruppo ancora il cielo e il sole e lo chiudo in degli spray. Sotto pressione ridipingo il mondo stile wild style, tra virgolette rap e muri micro skate. Darararei, darararararei. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. Sui tecnici scelgo dischi giusti come un cubo di Rubik, incastro gusti diversi altrettanti pretesti. Non è impossibile comunicare senza usare gesti, uso melodia per animare testi, gestino artisti che si credono perfetti. Personalmente vado avanti in quattro quarti, piccoli passi, percorsi immensi. Imprimo le mie azioni con bombole stensi, fasi distrazi che invadono i miei spazi. Starci stretto e prassi, e può darsi che ormai è difficile dimenticarsi di chi sa farsi in quattro per educare un figlio nel tempo. Tramite un sample, due piatti, la mia scuola vantava un pavimento a scacchi. Ora scatti, mi piace ricordarli, portarli dentro me fino alla fine dei miei giorni. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. B-boy just wanna have fun. Rapnofobia, rapnofobia. Strappo pagine a cartoccia, quattro note ai margini, frasi a caso aspetto. Ora il giorno giusto, lo stato d'animo adatto. Spesso mi danno, ma altro non faccio per giorni. Good morning, mi alzo col blocco accanto. Anno dopo anno non c'è erba né alcol che tenga quanto l'anima che cade sopra un foglio. Spesso mi distraggo, mi allontano dall'amore più grande. Lacrime d'inchiostro mi riportano all'ordine. Vomito rime su rime sognando un rande. V di lettere a sud tutto mi sorprende, mi emoziona mentre 5SR campione. Quando la mente si arrende non guarda che un foglio bianco e funziona.